известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. It's daybreak here in Urumqi, just over 2 days after the Sunday riots hit the streets of Urumqi. Today seems to be another normal day, at least on the surface. People have started to jog around the square. We've seen people walking. E allora oggi è il giorno fatidico del primo G8 di Barack Obama, della macchina organizzativa dell'Aquila, dell'incontro del Presidente degli Stati Uniti con il nostro Presidente Napolitano, che si è tenuto in mattinata dopo lo spettacolare arrivo a Pratica di Mare della nuova coppia presidenziale, quell'abitino giallo che sicuramente di Michel, che sicuramente riempirà le cronache più leggere del vertice. È il giorno delle polemiche sospinte dai quotidiani anglosassoni e ne parleremo, approfondiremo più tardi. È il giorno anche dei dubbi sulla concretezza dell'agenda dei lavori di questo summit, ma è anche il giorno di una assenza, come dire, perlomeno sonora, importante, centrale, per certi versi anche decisiva al G8 italiano, perché come sapete il presidente cinese Hu Jintao ha lasciato in modo precipitoso ieri l'Italia, è già arrivato a Pechino, ha rinunciato a partecipare ai lavori del G8 dell'Aquila e secondo l'agenzia Nuova Cina Hu è rientrato a causa della situazione nella regione autonoma dello Xinjiang, delle violenze a Urumqi, la capitale dello Stato, che avrebbero provocato 156 morti e forse delle code più velenose, più insospettabili di quanto si pensava in un primo momento. È interessante a questo proposito leggere un articolo che è stato pubblicato questa mattina dal Wall Street Journal, il prestigiosissimo giornale finanziario, intitolato La vera storia della protesta degli Uiguri, a firma di Rebia Kadir, una degli esponenti di punta della protesta. È una imprenditrice di 62 anni che vive in esilio dal 2005 e che fornisce delle cifre ben diverse da quelle per ora ufficializzate dal governo cinese, che ricordo parla di 156 vittime. Invece la Kadir parla di oltre 400 vittime. Nell'articolo di questa dissidente sostiene che gli incidenti potrebbero essersi verificati anche in altre città, fa dei nomi: Kashgar, Arkandas, Ku, Khotan, Karamai, anche se, scrive, è difficile dire a causa della propaganda dello Stato cinese. L'attacco del pezzo, che è intitolato La vera storia della rivolta uigura, è il seguente: quando il governo cinese guarderà indietro al modo in cui ha amministrato le ribellioni a Urumqi e nel Turkestan orientale durante questa settimana, è assai probabile che dirà al mondo che ha agito nell'interesse del mantenere la stabilità. Facile ipotizzare che dimenticherà di spiegare perché migliaia di uiguri hanno rischiato tutto per esprimersi contro ingiustizia e perché centinaia di uiguri ora sono morti per aver esercitato il proprio diritto di protestare. Allora, prima di spostare l'occhio, l'osservazione sull'Aquila e sul G8, riteniamo utile, necessario anche a una completezza di informazione internazionale, stare attenti, approfondire che cosa succede da quelle parti, al punto da spingere a un atto pressoché inedito il presidente cinese Hu Jintao. Abbiamo in linea Luca Vinciguerra, corrispondente del Sole 24 Ore della Cina, ospite frequente di Jefferson. Lo abbiamo già sentito, ma vogliamo appunto con lui tornare a parlare anche alla luce di questo gesto molto significativo. Buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ecco, da quelle parti c'è sorpresa per questa mossa così inconsueta, no? Rispetto al canone, alla solennità dei movimenti di un presidente cinese, un rientro precipitoso, un abbandono di un summit internazionale. Forse le cose non stanno così a posto o non sono state così sistemate come si poteva supporre in precedenza. Sicuramente la Cina ha vissuto come un trauma i disordini etnici di domenica scorsa a Urumqi e quindi, diciamo, a fronte di questo trauma i giornali locali, le media locali hanno giustificato il rientro di Hu Jintao in patria come appunto un'assunzione di piena responsabilità. È bene ricordare che Hu Jintao, in qualità non solo è segretario del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica, ma è anche il Comandante Supremo delle Forze Armate. Quindi insomma è un po' quasi un atto dovuto che il Comandante Supremo, in una situazione del genere, ricordiamolo che se vogliamo fare banalmente il conto delle vittime, si tratta di una sommossa ben più grave di quella che andò in onda nel marzo del 2008 in Tibet. È normale quindi che appunto che rientri per prendere il comando delle operazioni. Ciò detto, è anche vero che è probabile che in base alle informazioni dell'intelligence cinese la situazione sia più grave di quanto non sembri. Più grave cosa significa? Significa che in altre parti dello Xinjiang, che è una regione enorme, sterminata, con almeno una decina di città medio-grandi, dove a differenza di Urumqi la maggioranza della popolazione è ugura, può darsi che in queste città covi la cenere, covi qualcosa sotto la cenere che sia pronta a esplodere. Ecco Luca, ma se volessimo provare a rispondere, naturalmente in modo sbrigativo e necessariamente generalista, a queste domande che pone la dissidente Kadir sul Wall Street Journal, nell'articolo che abbiamo citato, oltre peraltro a mettere in ballo questi dati inquietanti su cui vorrei un tuo commento, si parla di oltre 400 morti a fronte dei 150 denunciati dal governo, no? Ma quell'interrogativo sul perché questi uiguri insomma vadano incontro a dei guai serissimi e perfino alla morte, che a fronte del fatto che si informa adesso con una certa prontezza sulla rivolta, ma sui perché della rivolta mi sembra ci sia un po' più di laconicità. Ecco, che cosa potremmo dire ai nostri ascoltatori? Ma i perché della rivolta sono molto semplici. Il primo è che i cinesi nel 1949, dopo la rivoluzione maoista, sono entrati nello Xinjiang e lo hanno di fatto una regione dove vuol dire basta andarci per capire che non sono cinesi, cioè lo Xinjiang è abitato da popolazioni nomadi di origine turcomanna, di religione islamica, che proprio dal punto di vista somatico non hanno nulla a che vedere con i cinesi. Come per spiegare agli ascoltatori, è come andare in Turchia, insomma. Infatti c'è una mobilitazione decisa da parte della Turchia. Basta vedere le fotografie, probabilmente, che ci sono visioni sui giornali per capire, vuol dire che quella sicuramente non è Cina, insomma. Certo. Comunque, a fronte di questa, diciamo, parallelo a questa, diciamo, colonizzazione forzata, perché negli anni il governo cinese ha spostato un numero sempre maggiore di cinesi nello Xinjiang, al punto tale che oggi Urumqi, la capitale, ci sono più cinesi che uiguri. A fronte di questo, ovviamente ha portato anche la tecnologia cinese, i capitali cinesi, gli investimenti cinesi, e la regione si è sviluppata, una regione peraltro molto ricca di materie prime, in particolare petrolio e gas. Ecco, il problema fondamentale, come spesso accade anche in altri posti del mondo, è che i colonizzatori, chiamiamoli così, hanno tratto i maggiori profitti dallo sfruttamento di queste risorse naturali, e i locali sono rimasti solo le briciole. Nonostante lo sviluppo degli ultimi, diciamo, 20 anni, gli uiguri, li ho visti io con i miei occhi nello Xinjiang, insomma, conducono una vita ancora molto molto grama. Basta andare lì per vederlo, basta entrare nei negozi, tutti i negozi sono di proprietà cinese, tutte le posizioni chiave sono occupate da cinesi, e poi ovviamente, come nel caso del sindaco di Urumqi, per salvare la faccia ci sono delle persone che sono degli uiguri che vengono messi in posizione di responsabilità. Questo è ovvio, se no sarebbe un gioco troppo, forzare un po' troppo la mano. Però diciamo, questo molto in sintesi è la ragione di questo profondo odio etnico nutrito da parte di questa minoranza etnica nei confronti dei cinesi. Riguardo a queste cifre assai variabili offerte dalla dissidente che abbiamo ascoltato nel suo articolo Wall Street Journal, c'è qualche indiscrezione, c'è qualcosa in più, dispone di qualche dato in più? Guarda, non le commento, anche perché non vorrei sembrare, ma spesso, con tutto rispetto, queste figure diventano un po' dei messia. Io credo, lei sicuramente ha dei contatti, se dice che forse altri scontri ci sono stati a Kashgar, a Karamai, a Otan, secondo me è in grado di saperlo, non può non saperlo. Quindi non vedo perché ecco, preferisco non commentarla. I condizionali, mi fermo qui perché, ripeto, tante volte poi di situazioni così gravi non è il caso, secondo me, di travisare. Però resta il fatto, Luca, resta il fatto che come dire, Ugintao, insomma, ha rifatto la valigia ed è tornato in patria. Un qualche criterio di eccezionalità questa vicenda, oltre al criterio tragico dei morti che coinvolge, lo possiede, no? Beh, come dicevamo prima, si tratta comunque di una delle più gravi, se non la più, certo, grave rivolta etnica nella storia della Repubblica Popolare Cinese. Purtroppo, come è sempre difficile conoscere i numeri e quindi fare dei rapporti, però se pensiamo l'anno scorso al Tibet, già adesso ci sono 10 volte morti in più, certo, almeno, certo, quelli accertati, certo. Insomma, al di là delle voci, diciamo, parliamo delle cifre ufficiali. È chiaro che una cosa del genere giustifica un rientro affrettato. È una situazione molto difficile da leggere, anche perché gli uiguri sono totalmente avulsi dalla società civile cinese, cioè è molto più facile entrare. Non riescono neanche a far sentire la voce delle proprie ragioni, in un certo senso. Ma anche entrare in contatto, cioè in una grande città, non so, Shanghai, Pechino, cioè incontrare un uiguro è una cosa assolutamente molto più facile di incontrare un inglese o certo, un italiano, è molto più facile incontrare un italiano, no? Certo. Un inglese. Nel senso che se ne vede qualcuno all'angolo delle strade a vendere questi tipici dolci loro fatti con la frutta secca, ma ripeto, ma sono due corpi completamente strani, quindi è anche difficile, se vogliamo, avere notizie di prima mano. Ci ho detto, io sono stato due volte nello Xinjiang, in due città diverse, vivono anche nel terrore, nel senso che è molto difficile che si sbottonino con lo straniero, anche perché essendo un territorio di frontiera, essendo un territorio che ha sempre dovuto, diciamo, convivere con questa presenza esterna che per loro è del colonizzatore, teme dietro chiunque che non sia uiguro vede la spia. Certo. E quindi è difficile avere anche raccogliere, diciamo, delle confessioni o delle confidenze. Va bene, resteremo in contatto con Luca Vinciguerra anche nei prossimi giorni. Comunque arrivano ora altre notizie, una delle quali informa che i responsabili di grave violenze in questa regione saranno condannati a morte, lo annuncia il capo del Partito Comunista di Urumqi in una conferenza stampa dopo il grande numero di vittime nella rivolta. E c'è anche un italiano, in un certo senso, vicino ai fatti appena narrati, si chiama Francesco Petracchini, ricercatore del Consiglio Nazionale Ricerche, che si trovava per attività di monitoraggio dell'aria svolte dall'Istituto di Inquinamento Atmosferico proprio a Urumqi. Ha rilasciato un'intervista, ha detto di trovarsi a Urumqi da 2 settimane insieme ad altri colleghi. A domenica ha sentito spari e sirene, forze dell'ordine hanno blindato il suo albergo, sono rimasti bloccati in costante però contatto con il console italiano, fin quando è stato detto loro di spostarsi velocemente in aeroporto, dove hanno preso in sicurezza un volo per Shanghai. Questa vicenda è così importante, ripeto, da aver sottratto al girotto dell'Aquila uno dei suoi protagonisti, seppure come osservatore esterno, ma che osservatore, Ugintao, e quindi merita di continuare ad essere seguito in parallelo con le novità che ci auguriamo sarà in grado di offrirci il vertice dell'Aquila. are the world, we are the children, un appello che per molti versi formulato a suo tempo da Michael Jackson e dalla straordinaria parata di star che lo accompagnarono è rimasto un po' inascoltato, è stato riproposto nella commovente funzione, riunione, celebrazione di ieri allo Staples Center di Los Angeles per dare l'estremo saluto a Michael Jackson. Tra l'altro le musiche che ascoltiamo oggi sono tratte dalla serata, ma questo We Are The World è in realtà, come dire, il tema centrale paradossalmente del G8 di molti anni più tardi nell'Aquila, nella città dell'Aquila, all'altezza del luglio 2009, mentre le polemiche circondano il vertice in questione. Cito tanto per cominciare, prima di arrivare all'articolo New York Times del quale parleremo nel secondo tronco della trasmissione, invece l'uscita del Guardian che con un articolo particolarmente velenoso ha richiesto addirittura, sollevando proteste, prese di posizione, in certi casi anche così il paventare un'offesa nazionale, ha chiesto l'espulsione addirittura dell'Italia, o perlomeno ha reso notizia della volontà, di una strisciante volontà, intenzione, desiderio, orientamento di sostituire addirittura l'Italia con la Spagna. Caro Emiliano, non dico una guerra diplomatica o tanto più culturale, ma un incidente spaventoso, secondo me. Dorme sotto la cenere questo appello. Berlusconi ha risposto in modo molto reciso, dicendo che il Guardian è un giornalino. L'articolo in questione però parla proprio di efficienza, di questa benedetta efficienza del summit, ovvero a che serve, che è una domanda secondo me su cui conviene riflettere e ragionare. Vi leggo solo un piccolo paragrafo dell'articolo. Mentre gli Stati Uniti provano a dare un senso al meeting, l'Italia è aspramente criticata per la scarsa pianificazione e per venir meno agli impegni di aiuto internazionali nelle ultime settimane precedenti al summit. In assenza di qualsiasi seria iniziativa riguardo l'agenda dei lavori, gli Stati Uniti avrebbero assunto il controllo delle operazioni. Washington ha organizzato incontri esplorativi nel tardivo tentativo di dare un senso all'incontro. Non ci sono precedenti di questo tipo. Gli italiani sono stati disastrosi, non c'è stata né ricerca né pianificazione, avrebbe detto un altro esponente di un paese partecipante al vertice. Il G8 è un club, tutti i club hanno doveri di partecipazione, l'Italia non li ha rispettati. Il ministro degli esteri inizialmente, Frattini, inizialmente non ha risposto, poi ha replicato in modo molto reciso. Richard Gowen, analista del Centro Internazionale per la Cooperazione alla New York University, ha fatto scattare la mannaia sull'organizzazione italiana del G8, dichiarando: la preparazione italiana del summit è stata caotica dall'inizio alla fine. Gli italiani fino a gennaio scorso non avevano una chiara visione del summit, hanno fatto sapere all'amministrazione Obama che se c'erano idee al riguardo erano pronti a ricevere istruzioni. E qui è partita la polemica. Vai. Allora, rapidamente do una notizia sempre legata a quello che poi è il tema dominante anche sui giornali cinesi, e si parla sempre solo di quello, cioè di quello che sta accadendo nello Xinjiang, e poi naturalmente di questa dipartita improvvisa, repentina, fragorosa nelle sue conseguenze anche d'immagine, di Hu Jintao dall'Italia. Infatti, per esempio, il China Daily nella sua versione inglese titola proprio questo: Hu Jintao accorcia la sua visita in Italia, tra l'altro annulla anche la successiva tappa in Portogallo, che però a noi interessa sostanzialmente anche abbastanza, certo, poco, e torna in patria. Mentre il South China Morning Post, giornale più diffuso nel sud della Cina, insiste sul fatto che migliaia di soldati da Pechino, dalla Cina continentale, stanno arrivando ad Urumqi, che viene definita città restive, che potremmo definire inquieta, recalcitrante, quindi si insiste molto sui disordini. Mentre fuori dalla Cina si segnala soprattutto la presa di posizione piuttosto dura della Turchia. La Turchia naturalmente è interessata a quello che accade in Xinjiang, perché, come ci ha spiegato anche il nostro Vinci Guerra, passeggiare per Urumqi è come se ha un'assonanza razziale, in Turchia. Certo, ebbene, certo. È intervenuto con parole molto dure, molto pesanti Erdogan, il presidente, il premier turco, rivolgendosi ai fratelli uiguri e dicendo insomma che le violenze da parte dei cinesi si sono estese con ferocia, quindi c'è grande preoccupazione della Turchia, mentre per esempio la Russia snoba un po' quello che sta accadendo, dice sono questioni interne, quindi si entra un po' anche nel complicato, a volte inestricabile scacchiere geopolitico per capire capire un po' le reazioni dei singoli stati di fronte a quello che sta accadendo. Comunque ci sembra interessante documentare quella che a tutti gli effetti è un incidente, se non qualcosa di molto più grosso, a sfondo razziale, in un paese dove siamo impreparati, no? Non siamo abituati a riceverne notizia, come la Cina, e a seguirne gli sviluppi. We'll be joining other world leaders at the G8 summit. I'll also have an opportunity to take a tour of the damage that was done. E queste sono le belle parole cavalleresche spese stamani attorno a mezzogiorno da Barack Obama nei confronti del collega Giorgio Napolitano nel saluto al termine del lungo incontro che hanno avuto a Roma, in Quirinale, subito dopo l'atterraggio del Air Force One a Pratica di mare proveniente da Mosca e dal vertice con i governanti russi. Barack Obama, il primo G8 per lui, eppure già in un ruolo di assoluta centralità, da vero protagonista, o forse intrisa di un protagonismo eccessivo. Di fatto anche la stampa, soprattutto la stampa anglosassone, sta spingendo su questo versante, su questa necessità di Obama al G8 per dare un senso e forse anche una direzione al vertice. E naturalmente si può ascoltare questi commenti, come quelli del Guardian che abbiamo accennato poco fa, o quelli del New York Times che vi leggerò oggi, con sentimenti di volta in volta di supponenza, di senso di snobismo, oppure di sensazione di sfiducia, ma di fatto sono prese di posizione che destinate a condizionare gli echi relativi a questo grande appuntamento, questo vertice. L'articolo del New York Times è intitolato quel G8, quindi già una partenza un po' scherzosa, un po' ironica. Vi leggo l'articolo: le aspettative sono basse per il G8 di quest'anno nella città italiana terremotata dell'Aquila, non perché manchino i problemi urgenti come la traballante economia globale e i mai sazi appetiti nucleari dell'Iran. Un summit che avesse successo potrebbe anche dare la necessaria spinta ai negoziati internazionali relativi al riscaldamento globale o a risvegliare le promesse di aiutare i paesi poveri, ma la pianificazione lassista, ci risiamo, del paese ospitante, l'Italia, e la debolezza politica di molti leader partecipanti lasciano poco spazio all'ottimismo. Se questa riunione vuole giustificare il tempo e gli sforzi profusi, il presidente Obama deve prenderne il controllo. È tempo per lui di riscuotere il credito diplomatico che ha guadagnato negli ultimi 6 mesi, trasformandolo in capitale diplomatico. Egli deve rinnovare le pressioni sulla Germania affinché investa di più nello stimolo economico. E al G20 Londra Obama ha deciso, in nome della unità internazionale, non insistere troppo. 3 mesi dopo però l'economia mondiale è ancora più debole e solo uno sforzo concertato da entrambe le sponde dell'Atlantico può promuovere un rapido recupero. Obama deve spingere gli altri leader a limitare i pericolosi impulsi protezionisti. Per farlo deve prima di tutto mettere sotto controllo questi impulsi a Washington, cominciare dal suo stesso partito. Poi dovrà rendere meno sfumato il suo approccio all'Iran per costruire quella unità contro gli avventurismi nucleari che venne evitata da George W. Bush. Il tentativo di Obama di stabilire rapporti con Teheran è il benvenuto, ma per ora costituisce solo una metà della politica. Deve essere rafforzato dalla ferma disponibilità delle altre economie del G8, Russia inclusa, preparandosi ad applicare sanzioni dure e cariche di significati su un tema sul quale gli Stati Uniti muovono in retroguardia rispetto all'Europa, come il cambiamento climatico. C'è un accordo generale nel limitare le emissioni pericolose, ma l'Europa sta promuovendo limitazioni più efficaci e più sbrigative entro il 2020. Obama farebbe bene a ascoltare e al ritorno a casa a insistere presso il Congresso. Saltando un po' nell'articolo, vi dico ancora che il giudizio è pesante nei confronti del paese ospitante. Tradizionalmente il paese ospitante determina il tono, i temi, l'agenda di questi incontri, ma il primo ministro italiano Berlusconi nelle ultime settimane ha dedicato essenzialmente le sue energie a parare gli attacchi dei giornali riguardo a questioni di compagnie femminili, capacità di intrattenere forse ne ha, leadership invece carente. E poi ci sono, c'è un lungo elenco di difetti però attribuibili anche agli altri leader e in sostanza una bocciatura, come dire, inaugurale in partenza per questo summit. Cerchiamo di capire se la sostanza esiste in tutto questo procedimento o se è solo una pia pura e forse impalpabile speranza. Abbiamo in diretta da Londra Loretta Napoleoni, economista, esperta tra l'altro di terrorismo internazionale, è stata nostro ospite un paio di mesi fa in studio qui a Roma in occasione dell'uscita del suo ultimo libro che è intitolato La Morsa. L'abbiamo sentita anche in diretta dalla Cina, ma ora da Londra deve aiutarci a capire, a derimere questa questione, questo scenario. Buon pomeriggio Loretta. Grazie, buon pomeriggio. Insomma, c'è stata molta, molta aggressività, tanto per usare una parola morbida, da parte della stampa internazionale e anglosassone e forse con un orientamento assonante con Obama e certamente meno con Berlusconi, ma è solo questione di personalità e questo vorrei capire da te. È solo perché il New York Times o il Guardian guardano con maggiore simpatia a Obama che a Berlusconi e quindi come dire, tutto il resto è noia, come direbbe Franco Califano, tanto per usare un esempio becero. No, io credo che il problema fondamentale sia l'istituzione del G8, cioè nel senso è un'istituzione che nasce all'indomani della prima crisi petrolifera, quindi nel 1974, da una costola di questo Library Group, che era appunto un'organizzazione di ministri delle finanze, ma anche alti funzionari di istituzioni monetarie, i quali si riunivano così informalmente una volta all'anno per discutere dei problemi economici. Ecco, dopo la prima crisi petrolifera prende l'aspetto del G5, perché insomma, sono le prime cinque nazioni più industrializzate del mondo, e poi man mano con gli anni diventa il G8 e diventa appunto questa istituzione che dovrebbe una volta all'anno dare la possibilità a questi leader di parlarsi a quattro occhi informalmente, quindi lontano dai protocolli e via dicendo, e di discutere di problemi diciamo, importanti, sia presenti che anche futuri. Ecco perché per esempio il tema dell'Africa è un tema molto ricorrente, anche il tema ultimamente del surriscaldamento della terra e via dicendo. Però Loretta, enunciati così, voglio dire, per carità, al di là delle buone intenzioni, ma questi problemi, come dire, il problema dell'Africa, no? È un mondo, è un universo, sono migliaia di, come dire, di vite che andrebbero trascorse per parlarne. In questi frettolosi incontri dove cioè, ci sono molte photo opportunities, ma poi mi sembra dov'è la where is the beef, come dicono in inglese, dov'è la sostanza? No, ma infatti questo è il problema fondamentale. Il problema fondamentale è che il G8 viene invece presentato al mondo, almeno questo negli ultimi direi 10 anni, viene presentato al mondo come un incontro importantissimo dove questi problemi verranno risolti, certo. Quando in realtà nessuno di questi problemi viene risolto, ma non solo perché, come giustamente hai detto tu, questi sono problemi enormi che non possono certamente risolversi in un incontro, ma anche e soprattutto perché la struttura del G8 non ha i poteri per poterli risolvere. Certo. Essendo appunto un incontro informale, le decisioni che vengono prese non sono decisioni che vincolano questi paesi poi a un determinato comportamento. Da qui la critica del Guardian di ieri nei confronti dell'Italia, che l'Italia ha accettato di raddoppiare, questo nel 2005 a Gleneagle, al G8 di Gleneagle, di raddoppiare gli aiuti, certo, all'Africa, e poi non l'ha fatto. Certo. Ma insomma Nanni Moretti diceva se si nota di più se ci vado o se non ci vado, ma allora però è una trappola mortale quella di un vertice di questo genere, mortale per modo di dire, nel senso che bisogna andarci perché se no sembra sconveniente, ma con la precisa coscienza di perdere tempo, vogliamo dirlo? Sì, ma infatti secondo me, se vogliamo citare Nanni Moretti, in realtà forse è più importante chi non ci va, nel senso oggi il leader cinese è, certo, dovuto tornare in Cina perché chiaramente ci sono questi scontri serissimi tantissimi, certo, etnici, e quindi sarà assente, cioè in questo momento è assente, in questo momento si sta discutendo, si sta decidendo questa famosa agenda che poi verrà annunciata questa sera su il nuovo programma economico per salvare l'economia dalla crisi attuale, ma anche per prevenire la prossima crisi, sulla base appunto dei punti presentati da Tremonti, e il leader cinese chiaramente non c'è. Quindi è immaginabile una decisione, diciamo, a livello di economia globale, e senza il beneplacito della seconda e della terza, anzi, economia, che poi tra poco sarà la seconda economia più importante nel mondo. Ecco. Bene, bene, ci troviamo con Loretto, allora diamo un attimo la linea alle notizie del traffico e poi cerchiamo di capire nell'ultima parte del nostro collegamento se davvero poi esistono delle colpe organizzative nello stabilire questa agenda, oppure almeno in questo, diciamo, c'è stata un po' di cattiveria. Tra poco. We love you, Michael. You mean so much to us. Especially me. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow in a twinkling eye, gone too soon. Shining and sparkling and spinningly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Eccoci ancora a parlare di G8, i lavori sono peraltro cominciati da poco, sono appena avviati, ne stiamo parlando con Loretta Napoleoni, economista in collegamento da Londra, e ci sta aiutando a commentare soprattutto questa particolare cornice mediatica nell'ambito del quale si sta avviando il vertice, una temperatura stabilita soprattutto dalla uscita di un paio di quotidiani anglosassoni, l'inglese Guardian e il New York Times, che nella fattispecie ha pubblicato oggi questo editoriale intitolato quel G8 velenosissimo, in cui soprattutto viene messa sotto accusa l'organizzazione, l'ideazione proprio, la progettualità italiana nei confronti di questo G8, e poi soprattutto si invoca, come dire, la concessione delle chiavi di casa del G8 a Barack Obama e in ogni caso alla amministrazione americana. Allora vorrei da te un parere su queste due prese di posizione e sulle motivazioni che le possono aver provocate. È un attacco alla gestione italiana ed è motivato, cioè si poteva fare meglio dal punto di vista della agenda, e perché dare le chiavi a Obama? Sicuramente è un attacco nei confronti della gestione italiana, perché gli scandali che hanno coinvolto il Presidente del Consiglio negli ultimi mesi pesano in un certo senso sulla sua figura. Infatti le stesse critiche non sono state mosse al G8 dell'anno scorso né a quello precedente. In più io credo che ci sia una grandissima differenza dal tono e dall'atteggiamento della stampa internazionale nei confronti del G20 G20 di qualche mese fa e del G8 di adesso. Allora, il G20 qualche mese fa non ha raggiunto assolutamente nulla, infatti nell'editoriale del New York Times si menziona il fatto che Obama in quell'occasione si è mantenuto abbastanza diciamo, calmo, non ha spinto il leader a prendere delle decisioni che invece adesso è importante prendere, per esempio l'aumento dello stimolo fiscale da parte della Germania, anche le politiche non protezionistiche e via dicendo. Nello stesso tempo si vuole dare a Obama una leadership mondiale che chiaramente non può avere senza il consenso di tutto quanto il mondo, cioè nel senso, se il G8 allora deve essere presieduto da Obama, non vedo perché si deve fare in Italia. Allora utilizziamo, e questo è secondo me un discorso da fare, perché non utilizziamo le Nazioni Unite, perché continuare con questo tipo di incontri? Tra l'altro al G8 dell'Aquila sono presenti 39 nazioni, cioè diciamo il G8 è diventato una sorta di incontro oceanico. Questa è una delle accuse che ci rivolge il Guardian, no? Dice per non andare in qualità gli italiani sono andati in quantità, hanno non avendo dei soggetti forti da porre al centro dei lavori, hanno allargato, come dire, il numero di partecipanti, come si fa alle feste dei ragazzini. Esatto, infatti questo storicamente è il G8 dove partecipa il più alto numero di stati. Allora a questo punto veramente uno si domanda se oramai il G8 è diventato questo tipo di incontro a carattere proprio globale, allora perché non spostare tutto alle Nazioni Unite? Tra l'altro il risparmio sarebbe incredibile, cioè, non abbiamo parlato di quanto costano questi incontri, cioè nel 2002 in Giappone si sono spesi 750 milioni di dollari per un G8 che verteva principalmente sul problema della povertà e sul problema dell'Africa. Se questi soldi fossero stati devoluti, no? Qualche problema era già stato risolto. Senti, ma per concludere abbiamo ancora un minuto, ma la domanda chiave è: poteva essere fatta meglio quindi la confezione, la piattaforma di questo vertice? No, io credo che gli italiani stanno seguendo il canovaccio tipico diciamo, del G8, è che ci troviamo in una crisi profonda e per la prima volta finalmente la stampa internazionale sta aprendo gli occhi, si sta rendendo conto che queste passerelle diciamo, dei potenti del mondo non servono assolutamente a nulla. Io sono sicura che al prossimo incontro ci saranno gli stessi tipi di polemiche, nel senso, cioè, il modello è obsoleto, quindi bisogna cambiare modello. Il modello è obsoleto. Grazie a Loretta Napoleoni, vi ricordo il titolo del libro che ha pubblicato da poche settimane sulla situazione economica internazionale, si chiama La Morsa, è pubblicato da Chiare Lettere e speriamo di averla di nuovo ai nostri microfoni per commentare l'andamento del G8. E contiamo anche domani di aggiornarvi sugli sviluppi in Honduras, un'area di crisi sulla quale, come vi ho raccontato ieri, l'amministrazione Obama ha mobilitato gli sforzi e le capacità di Hillary Clinton. E oggi e domani dovrebbero essere i giorni della presa di contatto tra il governo golpista, cosiddetto, e il presidente Zelaya, il presidente estromesso. Torniamo domani qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Aureggi a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it, su Facebook redazione Jefferson 2. Andiamo in replica a mezzanotte, la diretta dopo le 4, come sempre qui da Radio 24. Ci sentiamo, state bene. 是你们想象，无所谓真假，社会本来就是这样，被误会又怎样，被相信又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招，戴着面具，谁能活得动静先硬。我回家去打坐取舍，生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。拜谁拜谁